Paolo, mi sa che insomma ne approfitteremo ancora in altre occasioni. L'ultimo a replica, la dottoressa Cantù, anche per lei molte domande hanno riguardato le cose che ci ha raccontato. Sì, allora qualcuno ha chiesto com'è la spesa ospedaliera, da chi viene governata. In ospedale un tempo non si sapeva nulla, cioè venivano richiesti farmaci alle farmacie e poi quello che veniva in reparto era sulla cartella, ma nell'ASL di Alessandria è stato iniziato un processo, cioè si è passato, non so se qualcuno di voi ha già visto i macchinari, c'è la distribuzione ai degenti in dose unitaria, vale a dire tutto quello che il paziente assume viene registrato, nel senso che passa l'infermiere con un carrello e segue e dà la terapia che il medico ha segnato su un computerino, tutto registrato, per cui si sa di ogni paziente tutto quello che viene stato prescritto, da chi l'era stato prescritto, quello che ha preso, perché molto spesso in ospedale mancava il farmaco, non veniva dato, adesso non fugge più nulla, quindi la spesa farmaceutica ospedaliera nella realtà dell'ASL di Alessandria, ma anche in altre, ci sono tanti esempi, anche a Piacenza, Gemelli di Roma, insomma ci sono diversi ospedali che hanno adottato questa distribuzione di dose unitaria che ci consente di riconoscere anche quanto costa la stessa patologia curata ad Alessandria, cioè a Tortona o ad Acqui o a Novi o... e questa è una pratica molto costosa perché c'è stato un investimento enorme, forse non era il momento di farlo in questi anni, però ci consentirebbe di conoscere proprio esattamente come si fa per ogni paziente, di cui le ricette sono tutte scandalizzate, si sa cosa costa e che cosa ha assunto da anni, perché le ricette sono tutte appunto, diciamo, c'è un sistema, un database che conserva tutte le prescrizioni fatte, così anche per quanto riguarda la urgenza in ospedale si è cominciato a poter calcolare i costi. Quello che avviene in tutti gli ospedali in Italia è invece che negli ospedali c'è un portale terapeutico ospedaliero, cioè i farmaci vengono acquistati, non sono deputati al singolo medico ma vengono vagliati in una commissione che valuta il rapporto qualità-prezzo, anche perché noi sappiamo che molto spesso le prescrizioni dell'ospedale si riflettono poi nelle prescrizioni territoriali, molto spesso il paziente esce con la lettera di dimissione, il medico ricalca le prescrizioni suggerite, per cui è bene sempre tenere presente di non prendere, di non prescrivere il farmaco ultimo uscito, ma il farmaco già utilizzato in ospedale che è passato al vaglio di questa commissione. È il farmaco vecchio, è senz'altro un farmaco molto conosciuto, di cui si sa tutto del farmaco nuovo, a meno che non sia molto interessante per il farmaco per l'epatite C, è chiaro, però molto spesso è un doppione. Una cosa che si faceva due giunte fa, ai tempi della giunta Bresso, ma non per difendere Bresso, ma Bresso, concorda, poi la cosa è stata segata. Ma guarda, e ancora ma anche adesso, però, con la giunta Chiamparino non è stata ripresa. Era una formazione indipendente, molto bella, fatta alle ASL. Era stata fatta una convenzione con l'ASL di Milano, dove c'è un formatore che probabilmente magari qualcuno conosce, il dottor Donzelli, che faceva formazione ai medici. Lui era veniva a Torino e le ASL andavano e la formazione veniva fatta sulle varie patologie, diabete, ipertensione, eccetera, in modo tale che chi era invitato erano i servizi farmaceutici, che erano quelli che poi colloquiavano con gli specialisti, con i medici di famiglia nelle varie equipe, e i direttori dei distretti, che dovevano portare questi messaggi. Ci aiutava a facilitare il nostro compito, che non era facile per noi farmacisti andare dal medico, avevano competenze diverse. Beh, questo è stato utile e oltretutto i medici di famiglia ricevevano un giornalino, le pillole della salute, e c'erano anche le pillole della salute per il cittadino. Questo non era male, aveva un costo, poi è stato chiuso, però la formazione indipendente in effetti manca. Ci sono delle riviste indipendenti, c'è Medical Letter, Prescrive, ce ne sono parecchie, ci sono quelle delle farmacie di Reggio Emilia, però sono, diciamo, per addetti ai lavori. Noi per esempio le usavamo per preparare le commissioni terapeutiche ai vari specialisti, il raffronto tra i farmaci richiesti per vedere se effettivamente c'era qualcosa di nuovo oppure no, e non poteva essere la farina del nostro sacco solo, ma doveva essere anche supportata da questa letteratura indipendente che si trova su internet qualcosina, ma è per addetti ai lavori. Quello che volevo ancora dire ai toiletti illustrativi, di cui qualcuno ha parlato, sono già molto meglio di quelli che c'erano una volta, perché erano incomprensibili al comune cittadino. Adesso, avendo adottato una direttiva europea, se voi mi aprite, gli ultimi sono sempre giganteschi, perché devono portare un sacco di informazioni. Però, se voi lo vedete, a che cosa serve, quando devo prendere il farmaco, cioè sono leggermente più leggibili, non molto, ma un pochino. Ecco, io non avrei altro da aggiungere. Va benissimo, grazie mille, un grande applauso anche alla dottoressa.